Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Lulic, c'è Keita dall'altra parte, 2 contro 1, Lulic potrebbe andare anche da solo, Lulic apre, Keita, 3-1 Lazio. Ecco il fischio di Tagliavento, parte Diamanti, un gioiello su punizione di Alessandro Diamanti, Palermo 1, Fiorentina 0, 32esimo, la firma d'autore è del 23. Dallini la prolunga, Trotta si gira, Trotta va in porta e il Crotone trova il gol del vantaggio con Trotta, 1-0. Top e cross, salta Kuzka, Kordac con una mano, palla buona e il Milan trova il pareggio, 1-1, credo ultimo tocco di Paletta e il Milan pareggia. Abbiamo messo su una musica bella dura, ma in realtà questa è la domenica del gambero, carissimo Carlo Genta. Sì. Il gambero lo fa la Roma, che comunque poteva tenere aperta una speranziella, sai, andare a 6 punti vincendo il derby la e Roma poi vediamo che cosa succede. Perde molto di più di un derby, perde molto di più di un treno. In questa partita ha perso anche un po' la faccia, secondo me, perché alla fine lasciamo stare Orsato, che poi verrà tirato in ballo. Sì, adesso parliamo della questione in tutte arbitrale, le maniere, sì, della perché questione, è stato un weekend della un questione po' arbitrale, così, un po' particolare. La Roma è stata fatta comunque a pezzi dalla Lazio nel corso di tutta la stagione, salvo il primo derby vinto, poi è stata eliminata in Coppa Italia. E oggi la Lazio ha meritato questa vittoria. Uno si aspetta che la Roma entri col sangue agli occhi, visto che la Juve ieri ha pareggiato, invece niente. Uno si aspetta che il Milan entri col sangue agli occhi e invece pareggia Crotone. La Fiorentina fa vincere il Palermo in casa, sì, no, fa pazzesco. Vincere nel senso che insomma Palermo pazzesco. Oggi rischiava di essere retrocesso, non è così per l'aritmetica, ma è incredibile comunque questo 2-0. Vedremo se questa sera Inter e Napoli hanno sangue agli occhi, perché tutte e due hanno comunque un'occasione, il Napoli di avvicinare il terzo posto, l'Inter a pressione, il Napoli l'Inter adesso di giocarsi di nuovo l'Europa, adesso ha una motivazione in più. Già erano tante quelle di prima, il Napoli adesso ha una motivazione in più, perché questa Roma è acchiappabile dalla Juventus, la Juventus. Può essere, che può festeggiare lo scudetto domenica sera, può farlo domenica sera in contumacia, se cioè fa meglio Milan nel prossimo Roma. Weekend se sì. Fa meglio tra derby di Torino e Milan-Roma, la Juve è campione d'Italia nel prossimo fine settimana. Saluto Xavier Iacovelli, ciao direttore. Buonasera a voi, buonasera agli amici ascoltatori del Corriere dello Sport. Dai, dammi il tuo Oscar del gambero della domenica. Beh, è un bel match. È un bel match, soprattutto la Roma mi pare che domenica mani bassa, perché avete ragione, tutto ci si aspettava perché una formazione di Spalletti che giocasse il derby come non l'ha giocato. Grande però il merito di Simone Inzaghi, sì, insieme con Gasperini è l'altra rivelazione della stagione, perché anche il più ottimista fra i tifosi biancocelesti l'estate scorsa, quando Simone Inzaghi stava già andando a Salerno, non avrebbe mai immaginato un'annata così trionfale. La Lazio ha meritato di vincere il derby lungo il largo, dopodiché quando vorrete potremo aprire il capitolo arbitri, sì. Perché tanto prima arriva la moviola in campo e quanto meglio sarà per tutti alla faccia stiamo. Di quello che sostengono i vertici arbitrali italiani. Sì. Così evitiamo anche queste pantomime degli arbitri che poi si scusano per gli errori fatti, sì. L'abbiamo letto oggi su Tutto Sport riguardo a Guida e a suo errore, che c'era, poi è stato straordinario secondo me Allegri a parlare di altro, però c'era l'errore, oggi l'ha confessato Inzaghi col cuore leggero, ma perché poi il derby l'aveva vinto, perché il primo tempo di Orsato a Roma è stato scandaloso. A proposito, scrive un amico, vi do i riferimenti, 800 24 00 24, per intervenire in diretta, vi prenotate, vi richiamiamo, oppure 349 238 6666, sms e whatsapp. Scrive un amico, il rigore alla Roma è una cosa scandalosa, mi aspetto che Strootman prenda 3 giornate di squalifica per simulazione, e me lo aspetto anch'io, al di là dell'errore di Orsato. Non so, direttore, come la pensi tu? No, è così, è il minimo che debba accadere. Ora vedremo, saranno 2 o 3 giornate, c'è il precedente di Krasic quando giocava nella Juventus, però è talmente solare l'infrazione dell'olandese. Poi c'è qualcosa che è detestabile, è la simulazione. Perché certamente Orsato ha infilato una delle cantonate più grosse della sua carriera. Però sì, è tanto vero che questo è il miglior arbitro di questo campionato. Senti, sì. Ma trovi che gli arbitri, tanto parleremo a lungo, trovi qualche somiglianza tra Simone Inzaghi e Allegri? Sì, mi piace questo accostamento. La trovo, e come? Perché stiamo parlando di, tra l'altro, questo è un anno fantastico per i fratelli Inzaghi. In settimana Filippo aveva vinto la Coppa Italia di Lega Pro dopo aver portato il Venezia in Serie B il sabato di Pasqua dopo un'assenza di 12 anni, e il fratello ha firmato veramente il capolavoro tattico, perché l'indisponibilità, il forfè nei minuti immediatamente precedenti il calcio di Immobile poteva complicare terribilmente le cose, e invece ha scelto lo schieramento migliore, ha impiegato Keita come punta centrale, ha imbottito il centrocampo e ha preso di infilata la Roma. Io, se fossi Lotito, cercherei di superare le polemiche, i diverbi, le fratture con Keita, perché cedere questo giocatore sarebbe una follia. Questo è un giocatore che è del 95 e che dispone di margini di miglioramento enormi, e che è un gioiello che la Lazio dovrebbe... Non a caso lo vogliono tutti, direttore. Poi fra un istante sentiamo Montella, che io immagino finalmente deluso, visto che domenica scorsa era fondamentalmente contento di aver perso in casa con l'Empoli, ma diceva il calcio è così, si può vincere, perdere, pareggiare, perdere. Se uno tira, anzi facciamo così, riusciamo a sentirlo subito dai microfoni di Premium Sport, Montella. Facciamo un cambio al volo di auricolare, sì. Intanto comincio io con la domanda, tanto, sì, grazie. La mia domanda la sente. Allora io direi di cominciare con l'analisi di questa partita, il Milan che forse ha lasciato i primi 40 minuti, ha fatto un po' di fatica a entrare in gara, poi nel finale di primo tempo e nel secondo tempo comunque è stato un buon Milan che ha cercato a tutti i costi anche con i cambi la vittoria. Contro l'Empoli aveva parlato forse di una squadra anche un po' distratta, oggi che Milan è stato? Ma intanto abbiamo sofferto il primo quarto d'ora a livello agonistico, no? Ci aspettavamo un avvio così difficile, abbiamo un po' sofferto, poi a livello agonistico nella seconda parte del primo tempo la squadra ha giocato alla pari dell'avversario, quindi si è calato perfettamente nella partita. Abbiamo creato poco perché il Crotone ha speso tantissimo il primo tempo, cosa che evidentemente ha pagato un po' nel secondo, dove la squadra ha meritato il pareggio, ha creato tante situazioni, siamo stati ancora anche oggi poco risolutivi rispetto alle occasioni create. Gigi c'ha sull'1-1 ha fatto una grande parata in contropiede. Io non posso rimproverare nulla ai ragazzi sotto il piano del temperamento, sotto il piano, se non un po' nei primi 15 minuti, sotto il piano della volontà, dello spirito messo in campo oggi, e credo che debbano essere contenti di questo. Dobbiamo essere un po' delusi o arrabbiati per il risultato, cosa che dobbiamo mettere in campo nella nostra partita. Stiamo vedendo anche gli altri risultati, siamo perfettamente in corsa ancora, anche se queste due partite potevano sembrare per alcuni o sulla carta abbordabili, ma abbiamo imparato sulla nostra pelle anche rispetto agli altri risultati, no? Anche gli altre squadre talvolta perdono punti con le squadre più in giù in classifica, quindi merito al Crotone, complimenti. Noi non dobbiamo perdere questa determinazione e questo obiettivo, perché siamo perfettamente in corsa, quindi torniamo a casa con Infatti ringrazio i calabresi che tra l'altro ci hanno dato una grandissima ispirazione. Siamo ai ringraziamenti per i calabresi. Le due partite sono l'Empoli in casa e il Crotone fuori. Si è mancata la beneficiata. Non so direttore come la pensi tu. Secondo me, se parla così Montella è perché è consapevole dei limiti di questa squadra. Vi do due numeri contro due partite con l'Udinese, una col Genoa, una col Pescara, una con l'Empoli e una col Crotone, ugualmente divise tra partite in casa e in trasferta. Il Milan ha fatto 2 punti su 18, direttore. I numeri schiacciano le parole e sono lì a testimoniare e a confermare quali e quanti errori siano stati commessi dalla precedente gestione del Milan, anche in sede di mercato e di costruzione di questa squadra. Non dimentichiamo nemmeno che prima dell'arrivo di Montella il Milan avesse cambiato 5 allenatori nell'arco di 27 mesi e non si poteva pretendere che il nuovo tecnico d'incanto risolvesse tutti i problemi dei rossoneri. Secondo me ha già ottenuto un risultato strepitoso tenendo in corsa la squadra per un posto in Europa League. Tutto, a mio avviso, si deciderà fra 2 settimane a Bergamo, quando il Milan affronterà l'Atalanta. Io lo condivido, direttore, però lo strepitoso poi va anche contestualizzato, perché se fai 1 punto tra Empoli e Crotone nel momento decisivo della stagione, infatti viene a mancare la par condicio, allora è strepitoso anche il lavoro di Pioli. Doveva perdere il Milan oggi a Crotone, a parte che secondo me lo avrebbe pure meritato, al di là di quanto dica Montella, e nonostante abbia giocato un secondo tempo in cui ha cercato il gol, ovviamente la differenza in campo è talmente evidente, però per par condicio, insomma, 3 punti a testa alle due litiganti per l'ultimo posto della salvezza. Il Milan è una squadra che ha pochissima qualità. Leggendola un anno dopo, la campagna acquisti da 100 milioni dell'anno scorso è stato un fallimento colossale. Ah, ecco, appunto. No, bisogna intendersi su quale dovesse essere l'obiettivo del Milan in questa stagione. Se l'obiettivo doveva essere ritornare in Champions League, è stato fallito clamorosamente. Ma siccome sappiamo tutti che l'obiettivo era quello di ritornare in Europa League, in questo momento il Milan è in corsa per raggiungerlo, dopodiché è altrettanto chiaro a tutti che la nuova proprietà cinese dovrà mettere mano al portafoglio, e in primis è auspicabile, alla luce anche di quanto ha sottolineato significativamente Montella, che sciolga presto il nodo Donnarumma. Tanto più tempo aspetta il Milan, quanto più rischia di perderlo. Mi verrebbe la tentazione di chiederti come va a finire. Allora, lo faccio dopo il traffico, chiedo ancora un minuto di pazienza a Xavier Iacobelli. 800 24 00 24, e poi c'è un amico Andrea che ha scritto un WhatsApp 349 238 6666. Montella è stato chiaro, questi sono gli ingredienti, questa è la minestra. E poi c'è chi racconta di gol annullati al Crotone, uno almeno di Trotta era buono, però l'azione era anche parzialmente ferma, Trotta non era in fuorigioco, ma questo fa parte del discorso su questo weekend che dal punto di vista arbitrale è stato un mezzo disastro. Traffico. Convocati. Allora, 800 24 00 24, poi sentiamo anche le voci dopo il derby di Roma. Abbiamo Xavier Iacobelli. Come va a finire la questione Donnarumma? Beh, va a finire che Raiola sa fare benissimo il proprio mestiere e tutelare gli interessi suoi e del portiere. Io credo che Barcellona e Manchester United siano i rivali più temibili del Milan. Ecco perché la nuova proprietà deve risolvere la questione in tempi rapidi. Sul mercato, quando hai un giocatore di scadenza di contratto l'anno successivo, alla stagione in corso, non puoi permetterti di arrivare all'inizio della stessa stagione senza avere definito la questione. Sì, anche se il nuovo Milan, questa patata bollente l'ha eredita. La eredita, però può una nuova proprietà, tu hai parlato prima di portafoglio, io ho adombrato il sospetto che questo portafoglio non ci sia, non so quanto ci sia dentro questo portafoglio. Può una nuova proprietà permettersi di perdere il giocatore, simbolo tutto sommato del Milan in questo momento? Assolutamente no. Stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni, che è un fenomeno, l'ho ribadito anche oggi a Crotone, e che, ripeto, piace moltissimo. Ma per questione di immagine, non si può. Donnarumma deve essere il capitano del futuro, ma poi su questo si potrebbe aprire una parentesi. Oggi è domenica, appena finite le partite, non è il momento, ma anche sulla... anche sulla follia di un regolamento, perché se tu lanci un giovane a 17 anni poi di fatto rischi di perderlo, perché non puoi ancora metterlo sotto contratto e sei ostaggio del suo procuratore. Io almeno la penso così, ed è un paradosso assoluto. Grazie a Xavier Iacobelli. Ciao direttore. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Xavier Iacobelli. Saluto un altro direttore, Alessandro Vocalelli. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a voi gli ascoltatori, ciao a tutti. Allora, ti faccio sentire due voci dal derby, dal post derby: Spalletti sulla brutta giornata della Roma e Inzaghi sul protagonista assoluto. E poi meno male che la Lazio l'ha vinto questo derby, ovvero Daniele Orsato. Brutta Roma, sì, è vero. Brutti episodi che hanno determinato poi la brutta Roma, cioè nel senso che cominci bene, fai quello che è la partita che abbiamo pensato di fare, poi alla prima volta che vengo giù tirano un porta e prendi gol. Noi abbiamo perso di lucidità, abbiamo fatto delle scelte sbagliate, come l'altra volta non siamo stati fortunati negli episodi, perché sia il primo gol che il secondo gol sono tutte e due su deviazione, sono tutte e due tiri sporcati dal limite dell'area. L'infortunio di Orsato può capitare, e in quel momento non ho pensato all'errore che era stato commesso, ma ho pensato di scuotere la mia squadra, perché tanti ragazzi avevano visto quello che era successo, insomma, anche penso che c'era rigore su Lukaku, insomma siamo stati bravissimi, abbiamo avuto uno spirito che abbiamo vinto strameritatamente. Questi Spalletti Inzaghi, ci vuole un bel coraggio a dire siamo stati sfortunati sugli episodi, da parte di Spalletti. Direttore. Sì, è veramente grottesco, dai. Fortunati sugli episodi. Il calcio, veramente, nel calcio spesso si può dire tutto, è il contrario di tutto, però ci deve essere un limite. Allora, dire oggi Spalletti dica oggi che è stato sfortunato sugli episodi, quando c'era appunto un rigore netto per la Roma e per la Lazio sull'1-0, un rigore assolutamente inventato per la Roma, che aveva rimesso pienamente in corsa nella partita la Roma, è veramente una cosa, senza contare anche a livello di ammonizioni questo che aveva comportato, perché sul rigore di Lukaku ci sarebbe stata l'ammonizione di Fazio, che invece non era stata data, sulla simulazione di Strottmann ci sarebbe stata un'ammonizione di Strottmann, invece si è preso l'ammonizione Biglia perché ha protestato, e comunque un giocatore ammonito sicuramente c'ha un atteggiamento diverso. Alla fine di tutto questo, dire che sugli episodi Spalletti è stato sfortunato, ci vuole un bel coraggio. È un po' surreale, ma io volevo capire da Alessandro Vocalelli, dal suo osservatorio privilegiato, se dobbiamo essere più confermati nel fatto che la Lazio è una grande squadra e quindi può vincere un derby, o più delusi dall'approccio molle di una Roma che oggi in fondo si giocava ancora la possibilità di tenere aperto lo scudetto, poi no, l'avrebbe vinto lo stesso la Juventus. Più che altro secondo posto, che fa tutta la differenza del mondo, è quello che si giocava la Roma. No, soprattutto è la storia di due allenatori, oltre che di due squadre, secondo me. Cioè, da una parte un allenatore che ha recuperato in extremis la panchina della Lazio dopo che sembrava che l'avesse persa, era stato offerto un po' a tutti, a Bielsa, a San Paolo, eccetera, eccetera, che ha dimostrato di essere un grandissimo, secondo me, in questi derby. E per, come dicono a Roma, per tre volte l'ha incartata Spalletti, oltre a fare un campionato importante ed aver raggiunto la finale di Coppa Italia. Dall'altra parte c'è una storia di un allenatore che ha fallito i preliminari di Champions League, ha fallito l'Europa League, è stato eliminato dalla Lazio in Coppa Italia, è stato mortificato in questo derby di campionato che, appunto, come dicevate, poteva lasciare ancora una fiammella aperta, eppure è ancora l'allenatore che si fa pregare per restare alla Roma, che dice io non so se resto, poi vediamo, ci devo pensare. Cioè, veramente la storia degli uomini, non solo degli allenatori, è molto curiosa, insomma. Cioè, ci sono storie che hanno un alone intorno di così importanza, che poi non è dimostrata dai fatti, e altri che invece si conquistano a secondo i risultati, un risultato e un successo, e che forse non sono abbastanza celebrati. Guarda, ti leggo un paio di messaggi. Uno dice che delusione la Roma, è chiaro che Spalletti ha esaurito le motivazioni, e l'altro che dice la Roma sembra che abbia tirato giù le tende, squadra senza gambe e senza testa, forse anche perché è consapevole che Spalletti se ne andrà. Cioè, comunque la prendi che venga addebitata alla squadra o che venga addebitata a Spalletti la mancanza di motivazioni, il punto è sempre lì, in questa gestione, anche dal punto di vista comunicativo degli ultimi mesi. Ma c'è un problema tecnico nella Roma, non è un problema, perché Spalletti ha detto dall'inizio della stagione veramente di tutto. Ha detto a ottobre, quando la Roma è stata eliminata dalla Champions League, ha detto che aveva dei giocatori senza personalità. Adesso voi ditemi se Strootman, Nainggolan, De Rossi, Manolas Dzeko, Salah possono avere qualsiasi difetto, ma non quello della personalità. Poi ha detto che era un problema di appunto di troppi impegni, invece la Roma oggi, come la Lazio, è arrivata dopo 2-3 settimane in cui si allena soltanto oltre a giocare, eppure non c'è. Ha detto che gli manca, prima che c'aveva la squadra più forte che ha mai allenato, poi che gli mancava qualche giocatore, poi che la società non l'ha accontentato, poi che la società ha fatto tutto il possibile, poi che lui rimaneva solo se vinceva. Ha detto, e il problema è che c'è un problema tecnico. La Roma, oltre ad avere un problema anche di gamba, è una squadra che ha giocato abbastanza male e soprattutto ha perso tutti gli appuntamenti decisivi, ripeto, dai preliminari di Champions League al primo impegno serio in Europa League con Lione, alla semifinale di Coppa Italia con la Lazio, a cui era arrivata, attenzione, alla semifinale di Coppa Italia con la Lazio era arrivata battendo il Cesena al 93esimo con un rigore un po' dubbio, sì, insomma. Diciamo in media con alcuni di avuti in questa stagione, adesso senza voler far polemiche, questa non è andata malissimo alla Roma dal punto di vista arbitrale. E oggi, come dicevate, insomma, era una partita in cui c'avevi ancora la possibilità di dare senso, diciamo così, a queste ultime quattro partite, e l'hai strapersa, perché non è che l'hai persa, l'hai persa una prima volta, ti era stata regalata la possibilità di rientrare in partita, l'hai ripersa nel secondo tempo, tra l'altro cambiando ancora formazione, mettendo un Bruno Perez assolutamente inesistente, insomma, per cui insomma, io credo che la stagione della Roma sia veramente molto molto negativa, insomma. Che bravo Simone Inzaghi, e che bravo Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, ripeto, io credo che stia dimostrando veramente un ottimo allenatore. Adesso vi dico una cosa personale: io seguivo da inviato la Lazio di, diciamo, in cui lui era giocatore, avevo visto Simone Inzaghi verso ottobre-novembre ed ero convinto di trovarmi davanti, come spesso succede, l'ex calciatore che diventa allenatore. Invece parlandoci per 2 ore, ottobre-novembre, ho avuto proprio l'impressione di un allenatore, di una persona molto maturata nel nuovo ruolo. E lui è in questo momento un allenatore a tutti gli effetti, di grandi idee, di capacità, di grande personalità, ma anche di grande, mi verrebbe da dire, modestia, nel senso che comunque riconosce sempre i meriti dei giocatori e tutti quelli che lo aiutano. Insomma, è veramente uno che è, secondo me, insieme ad Allegri, il miglior allenatore della storia. C'è qualche similitudine? Lo chiedo anche a te. Trovi qualche somiglianza? Tra Inzaghi e Allegri. Beh, sono due che ripeto, sono sempre, tra l'altro, ispirati dal buon senso, anche se poi prendono delle decisioni forti, perché senza fare le prime donne, senza urlare, senza cercare la vetrina, così come Allegri in un momento particolare ha messo fuori addirittura Bonucci perché serviva addirittura una scossa di quel tipo, e oggi, per dire, Simone Inzaghi ha fatto un numero che è veramente di grande coraggio, perché se affronti il derby, ti fa immobile nel riscaldamento e non metti comunque Felipe Anderson e fai giocare Lukaku, se fosse andata male sarebbe stato travolto dalle critiche. Invece, coraggiosamente, ma fedele ai suoi principi, alle sue idee, è andato avanti per una strada non facendo la scelta più comoda. Sì, sono quelle cose che fai quando hai idee, fiducia e la squadra in mano. E quando hai la squadra in mano. Grazie direttore. A voi, direttore. Buona giornata. Ciao. Grazie ad Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Riusciamo a farlo? Sì, lo facciamo subito. Fabio dalla provincia di Venezia. Fabio. Sì, pronto? Eccoci, ciao. Eccoci. Allora, io ho apprezzato molto il fatto che voi avete enfatizzato questo problema, questo rigore di Strootman, no? Sì. In passato, però, non ho visto tutto questo vigore quando la Juve aveva dei vantaggi clamorosi. Mi auguro in futuro di sentire gli stessi toni così. Scusa Fabio, ma tu hai visto oggi il rigore di Strootman? Adesso a noi non ce ne frega niente dei rigori di Strootman e dei rigori della Juve, ma oggi Strootman e Wallace erano lontani almeno mezzo metro. Cioè una roba da tre giornate di squalifica. Cioè non è oggi non è stato un episodio normale su cui possiamo discutere, eccetera, eccetera. Juventus-Roma 3-2, ve lo ricordate? Sì, ma guarda, hai fatto l'esempio giusto. Juventus-Roma 3-2, stiamo parlando di una partita con 4 episodi di questione di centimetri. Tra l'altro, faccio un esempio, il fallo di mano in barriera di un giocatore della Roma, ancora se stiamo qui possiamo discutere se fosse sulla linea o appena fuori. Lo stesso l'intervento su Pogba, che diede un altro calcio di rigore, lo stesso la strattonata ai danni di un difensore della Juve su uno dei due gol gol della Roma. Guarda, se vuoi la rifacciamo, sono passati 2 anni e mezzo, ma stiamo qui a rifare ancora la moviola di quello Juve-Roma, ma quelli erano episodi su cui si può discutere. Wallo Strootman oggi? No, Fabio. Questo perdonami. Si può discutere, cioè, solo quante giornate di squalifica dargli per quella simulazione abnorme. Quindi stiamo parlando di due cose diverse, secondo me. Grazie comunque, Fabio. Ci fermiamo. 800 24 00 24. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. C'era un po' di tensione in campo? Mi sembra molto, molto normale tutto quello che è successo. Foga, rabbia agonistica, un po' di veleno. Poche volte ho visto un rispetto tipo quello che c'è fra queste due squadre. E il fatto che loro esultino e ci sfottano un pochino dopo aver vinto la partita, anche questo fa parte del derby. Avrei fatto lo stesso a posto loro. Abbiamo fatto lo stesso quando abbiamo vinto la prima di campionato. È il derby, dai, su, facciamo i bigotti. Io faccio un applauso a De Rossi, hanno cercato di provocarlo, e quelli della Lazio hanno esultato, la curva, e sentite cosa ha risposto. Questo è il derby, l'abbiamo fatto anche noi, oggi si perde e si sta zitti. Ma sì, ma è normale, ragazzi. Vi faccio sentire un'altra cosa veloce di De Rossi, perché oggi è stato probabilmente l'ultimo derby di Totti, è entrato al 28esimo del secondo tempo, 17 minuti più recupero, non ha lasciato il segno De Rossi. Francesco, sicuro quando perdi il derby per noi romani è qualcosa di diverso. Non ne ho parlato di questo derby, se sarà l'ultimo, non gli ho chiesto se gli dispiacesse più degli altri che abbiamo perso. Sicuramente sarà dispiaciuto, a prescindere dal fatto che possa giocarne altri in meno. Luca Telese, ciao! Ciao Luca, buongiorno. Allora, io stiamo cercando di capire perché la Roma, che oggi poteva chiudere il discorso secondo posto e riaprire quello scudetto, sia entrata in un derby con la faccia un po' così. Perché ha giocato male. Aspetta, bene, aspetta perché ti si sente malissimo. Se hai l'auricolare o il viva voce. Ah, ho l'auricolare. Vai, perché, non... no, perché ha giocato male, ha giocato malissimo la Roma. Ha avuto pure un miracolo di rigore da Actor Studio, che io fra l'altro elogio Strootman per essere procurato. Ma tu lo elogi, però si piglia 2 o 3 giornate di squalifica. Parlavamo prima anche col direttore del Corriere dello Sport, Vocalelli. I derby non sono delle manifestazioni buoniste. Le frasi che avete sentito di De Rossi dicono che il derby è tutto, cioè la foga, l'adrenalina. Ma nel miracolo del racconto di una partita c'era una partita riaperta. Hanno fatto i primi 15 minuti del secondo tempo, eravamo allo stadio sconvolti. Forse la più brutta Roma dell'anno. Quindi a merito la Lazio vince. Il calcio è questa cosa qua, tutti abbiamo delle passioni, però se la Lazio gioca una partita perfetta, in 3 tocchi arrivavano in area. Quindi è solo una questione tecnica e tattica? Cioè, se ma tu no, fai quel testa, quarto d'ora lì, non c'è qualcos'altro? Soprattutto di testa, no, è stato un quarto d'ora di oblio dopo i primi 5 minuti, la notte dopo il gol, le paure. Alla fine questa è una squadra che quando prende un gol in certi momenti, nelle partite chiave, crolla. E non puoi essere la Roma o competitivo per lo scudetto se hai questo stato d'animo. Luca, non si tratta di competitivo per lo scudetto è finito da un pezzo, non è mai cominciata questa storia. Il problema no, è che così perdi il problema è che perdi il secondo squadre, posto. Non così ora, perdi il secondo posto. Ma così no, perdi... io questo non sono convinto, però... dico che comunque è una delle squadre che lotta, vuole lottare in questo ciclo di anni, sta lottando per lo scudetto. Se in questo campionato tutte le partite decisive l'uomo del grande carattere Spalletti le ha perse, ci sarà un motivo. Poi Dzeko, basta, non mi fate parlare di Dzeko oggi, se no proprio sparo, è una cosa incredibile. Guarda, aspetta. È un giocatore capace di colpire in testa, si è arrabbiato per la sostituzione, passeggiava, fluttuava lungo il campo. Vabbè, adesso è colpa di Dzeko. Aspetta che ti faccio sentire che cosa ha detto Spalletti a proposito di Dzeko. Dzeko, si è un po' dibattuto su di lui che sbaglia le partite più importanti. Dzeko è un giocatore importante per noi, i numeri lo dicono, per cui oggi non hanno fatto una buona partita in più di un calciatore e non si punta il dito su uno soltanto. No, secondo me ha ragione Spalletti dopo una partita così, Luca. Assolutamente ragione, però chi l'ha messa questa squadra in campo? Chi ha detto che non fai neanche un cambio quando vedi 50 minuti di calcio a Nemco? Non lo so, io credo che in questa partita le responsabilità di Spalletti siano molte, anzi dirò di più, secondo me la famosa dichiarazione "non sono sicuro se resto, se non vinco non resto", a ben vedere in una squadra fragile psicologicamente è quella che ha innescato la fibrillazione della Roma, e da allora, dal ciclo delle tre partite in una settimana in cui si è giocato tutto, la Roma ha perso tutte le sfide, ma ripeto, come con il Porto, emotivamente. Prima emotivamente e poi il resto. Io ti do una data, il 7 di gennaio quando cominciò quella storia, ma andresti alla Juventus? Ma io sono un professionista, eccetera, eccetera, tutto è cominciato da lì. Da lì in poi se l'è presa, e con il mancato rinnovo di Totti, e con Totti, e con la stampa romana, e con Barbapapà, e con Dzeko, e con te, e con me, e con tutti quanti. E quindi... è da lì che l'ambiente si è destabilizzato, a torto, però è da lì che si è destabilizzato l'ambiente. Perché è un ambiente fragile, basta un dettaglio, basta una manfrina, basta una storia come quella di Dzeko a Pescara e inizia la fibrillazione. Però, ad essere anche sinceri, anche il campionato della Roma, che quest'anno era una squadra forte, quadrata, usciva da un ciclo... era il primo anno di Spalletti a tempo pieno, non subentrato. Anche a partire dal Porto c'era questa fragilità psicologica. Cioè lui è un allenatore che riesce a motivare per contrario spesso, ma non riesce a dare l'identità alla squadra di sentirsi insieme al suo leader in campo per vincere. Credo che questo emerga, altrimenti non avrebbero sbagliato tutte le partite decisive, tutte! Perché questa è la quinta partita decisiva consecutiva che la Roma sbaglia psicologicamente. Comunque la sensazione è quella che sia un ciclo un assolutamente finito. Saluto dal senatore Maurizio Gasparri. Sì. E devo fare assolutamente i miei più sentiti complimenti. Nessuno l'ha invitata, senatore. Ma proprio perché non mi avete invitato, devo dirle certe cose. Allora, sì. Devo fare assolutamente i miei più sentiti complimenti ad Orsato... che una volta tanto non si è fatto condizionare da oscure trame di palazzo contro la Roma. E naturalmente è a favore della Juventus, con arbitraggi che noi tutti sappiamo essere filosovietici. Sì. Ah, ed ha giustamente assegnato un rigore grande come il Colosseo. Ma non è vero. Ecco, mi fa piacere dunque constatare... quindi è piaciuto oggi. È piaciuto moltissimo, sì. Orsato. Oggi non ha sofferto della cosiddetta sudditanza psicologica. E non vi è dubbio alcuno che il rigore fosse cristallino, limpido, evidentissimo. Quindi, nonostante le cospicue mance elargite nelle tasche arbitrali dalla Rubens... Non si può dire, senatore. Oggi non si l'arbitro può dire. Orsato non si è fatto condizionare, quindi vive e felice. Possiamo dire che ha preso una topica, No, io a tal punto, anzi, mi consentirà pure l'amico... Sia corretto per una volta, oggi Orsato ci ha favorito. Ma io sono assolutamente corretto e lo sai che l'amico Luca Telese, col quale scambiamo sempre delle opinioni, visto che siamo romanisti entrambi, a tal punto è necessario twittare, quindi bravo, chiocciolina, Orsato, Hashtag rigore nettissimo. Rigore nettissimo. E ci aggiungiamo, visto che ci siamo, meritavamo noi, che non guasta mai, quindi forza lupi, sono finiti i tempi cupi. No, i tempi cupi mi sa che sono cominciati. Grazie Luca. Luca, invidi alla Lazio l'allenatore? Faresti cambio? No, non invidio niente a nessuno, però devo dire, oggi ho invidiato la Lazio sul senso di squadra. Cioè erano attestucci, sono stati ci sono state delle individualità straordinarie, che da Anderson, però era una squadra e soprattutto era una squadra determinata a raggiungere un obiettivo, e quello che vedevi nella Roma spaccata, episodica, alla ricerca di cose irraggiungibili, è che oggi non sembrava una squadra. Grazie Luca. Ciao Luca. Grazie Luca Telese, c'è Andrea da Torino. Andrea. Buongiorno a tutti, giornata straordinaria, sto godendo come un maiale. Vincere, sì. Vincere uno scudetto, io sono juventino. Quindi sei juventino. Nel derby. No, vincere, vincere uno scudetto. Con tutti sti errori arbitrari a nostro sfavore. Adesso non esagerare però, Andrea. È una godura. Sì, però non puoi stravincere nemmeno tu, su. No, vabbè. Sta giornata è così, godi come, ma hai ragione a godere come un maiale, perché ieri contro la Juve e oggi a favore della Roma. Però generalizzando si fa un errore. Scusate, la cosa bella è che la VAR dicono: oh, finalmente la Juve non vincerà più scudetti perché ci sarà la VAR. Se c'era la VAR questa settimana, punto. Non è che secondo me, adesso a parte gli scherzi, ecco. Penso che dagli ultimi 5-6 anni la Juventus non ha mai avuto vantaggi. Togliamo l'anno del gol di Muntari, dai, perché poi possiamo stare qui sei mesi a discutere se finiva diversamente, il gol, l'altro buono, e tutto quello che vogliamo, però non è che il gol di Muntari sia un episodio così, che non ha inciso, però la superiorità della Juve, negli ultimi 5 anni effettivamente è a prova di errore arbitrale, grazie Andrea. C'è il traffico, poi facciamo un approfondimento anche sulla sfida tra Pioli e Sarri a proposito di allenatori sull'orlo della crisi di nervi. Convocati. Tutti convocati. Il fatto che lei dovrebbe, fino a prova contraria, restare a Napoli. Non andare tanto oltre, perché ho una mente limitata, cioè ho pochi giorni d'autonomia. Vabbè, che c'entra con le... Non ce la faccio a vedere tanto oltre. Ah, vabbè, tanto oltre che vuol dire? Fino a un contratto. Fino a Cagliari, vediamo fino a Cagliari. Non si vede che sto bene, cioè i capelli ce l'avevo poco anche prima, ma ce n'ho poche adesso. Io sto bene, sto lavorando, poi queste situazioni fanno parte del lavoro, il calcio è questo, a volte ti dà tanto, a volte ti toglie. Non mi sono mai esaltato nei momenti migliori e mai mi deprimo in questi momenti che possono essere difficili. Io non sono un manager, sono un allenatore. Io ho un contratto e quindi non vedo dove sia questo tipo di problematica. Io mi sono messo a disposizione, ho detto: se il presidente non è contento io rassegno subito le dimissioni, e se posso contento io il presidente mi ascolterà, ma il contratto è in essere, quindi se sono contento te lo dirò il 30 d'agosto, il 31 d'agosto. Innanzitutto, in questi sei mesi di Inter, se avessi dovuto fare ogni smentita per ogni notizia non vera, avrei dovuto convocarvi qua spesse volte. Non ho mai pensato di dimissioni, mai ci penserò. Credo che si sia parlato troppo, che si sia persa troppa energia, si è parlato troppo del mio futuro e poco del presente dell'Inter. Il progetto non è solo l'allenatore, sono tutti i ragazzi che lo rappresentano, quindi se il presidente ha questa volontà, io ho questa volontà. Allora, questo è il breve riassunto sonoro della vigilia di Sarri e Pioli. Il bello è che questa sera Inter Napoli conta tanto, anche in campo, tantissimo. Perché insomma, abbiamo detto, se il Napoli vince rientra clamorosamente nella lotta per il secondo posto, vincendo va a meno uno dalla Roma. Se l'Inter vince aggancia il Milan al sesto posto, quello che vale il preliminare di Europa League. Però alla vigilia si è parlato di tutto, quasi tranne che di questo. Pierpaolo Marino, ciao direttore. Ciao direttore. Ciao cari. Che sensazione fanno queste parole di Sarri, unite anche a quelle di De Laurentiis di una decina di giorni fa, in cui ha evocato la clausola dicendo: ma per un anno non può andare via, poi c'è la clausola da 8 milioni, non so se qualcuno vorrà pagarla. Io veramente ci trovo qualcosa che non convince. No, sono discorsi secondo me troppo freddi per due persone che collaborano ai livelli di responsabile risorse umane come l'allenatore oggi e proprietà e poi anche direttore generale, general manager, perché poi alla fine De Laurentiis Aurelio riassume in sé tutte le posizioni diciamo più alte della scala gerarchica della società. Quindi trovo dei ragionamenti che non entusiasmano, però... Cioè, è come se stessero insieme più per contratto che per davvero per un'assoluta convinzione. No, non voglio dire questo, perché poi alla fine i contratti oggi nel calcio, per quanto possono avere penali e non penali, sono sempre a quei livelli lì, contratti rescindibili, perché se un allenatore non ha voglia di stare, non è che lo puoi tenere sulla panchina passivamente. Quindi no, questo no, però comunque non mi trasmettono entusiasmo queste parole, né da una parte né dall'altra. Ma a me pare, direttore, che il problema non trasmette entusiasmo, perché mi sembra che il problema non si ponga, o no? Appunto. Cioè non mi sembra che sia in discussione la permanenza di Sarri al Napoli. Assolutamente, tra l'altro però Sarri ha la possibilità di arrivare concreta, anzi secondo me se vince stasera San Siro diventa il principale favorito per il secondo posto, nonostante quello che sarebbe un punto di distacco dalla Roma. Insomma, arrivando anche secondo, la stagione comincerebbe ad essere veramente positiva. Ma indipendentemente da tutto sarebbe positiva in ogni caso, perché non dimentichiamo che il Napoli, nonostante l'infortunio di Milik, nonostante diciamo quindi abbia dovuto impiegare Mertens come centravanti, come prima punta, che non lo era, e lo Sarri l'ha saputo far diventare una vera prima punta, e nonostante questo Sarri ha fatto benissimo, perché non ha mai toppato dal punto di vista del gioco, si propone sempre con un attacco estremamente prolifico in tempi in cui non tutte riescono a fare tanti gol, quindi una squadra propositiva. E poi diciamo stare lì primo, secondo, terzo, se finisce un punto in più o in meno della Roma non conta niente. Il problema non sia tanto nella valutazione del risultato che ottiene quest'anno Sarri. Io credo che il problema sia in quell'immagine che ha in testa De Laurentiis di un Napoli che sia competitivo per lo scudetto, per quel sogno lì. E mi pare che su questa cosa le opinioni divergano in maniera profonda, ma anche quello che ha detto ieri Sarri, cioè se va via Mertens considero il ciclo chiuso, più o meno, insomma. È un po' forte come affermazione, no? Sì, diciamo, è da questo punto di vista che il futuro, cioè nel senso del futuro, le parole da una parte e dall'altra non trasmettono entusiasmo, però poi nel calcio... Cioè la pensano diversamente, inutile girarci intorno. Sì, la pensano diversamente, ma secondo me anche De Laurentiis non deve dire quelle parole che... diciamo, quando De Laurentiis ha parlato di Scudetto l'ha portato sempre sfortuna, perché l'ha fatto a Di Maro, mi pare due o tre anni fa, e la stagione... non si risolse secondo le aspettative, e ora lo ripropone questo discorso, ma secondo me al di là dei proclami bisogna operare per vincere gli scudetti e colmare quel gap con la Juventus. Direttore, come fa? Cioè, è come chiedere a qualche tedesca di portarvi lo scudetto al Bayern Monaco, che ieri l'ha vinto per la millesima per la volta, quinta volta consecutiva, la settima nelle ultime 10. Sì, lo vince di default. È come chiedere a tutti gli anni in Spagna che accada un miracolo come quello dell'Atletico Madrid, perché di quello si tratta, come quello che fu del Deportivo La Coruña. Ormai la distanza è tale per cui c'è un'implosione della Juventus. L'anno scorso la Juventus ci ha provato con una pessima falsa partenza e poi ha fatto quello che ha fatto. Se non l'ha vinto l'anno scorso, bravo, è dura. Come fai? Cioè, a febbraio il Napoli, ai primi di febbraio, lo scontro diretto era avanti, e quindi se avesse preso qualche giocatore a gennaio invece di Regini e Grassi, probabilmente avrebbe mantenuto quella posizione. Qualche chance in più l'avrebbe avuta. Ho ancora una domanda da girare invece, che riguarda l'altra delle due contendenti di questa sera. Da dirigente volevo chiedere a Pierpaolo Marino che giudizio dà, che voto dà della settimana dell'Inter, con il comunicato per mettere la squadra davanti alle proprie responsabilità, il ritiro, poi il ritiro interrotto per qualche ora che ha fatto infuriare i tifosi. Dovevano andare a cambiare la camicia, te l'ha spiegato Mondoni, direttore, Giovanni. Meglio non dare, cioè, può sembrare, uno quando parla può sembrare che dia lezioni, però sono dinamiche che conosco molto bene. Tu non l'avresti fatto? No, ma non c'entra io cosa avrei fatto, perché ogni situazione è contingente, però comunque quello che traspare è una situazione di scollamento, e di mancanza di leader sia da una parte dietro la scrivania e dall'altra in campo, perché c'è troppa confusione. Invece guardate la Juventus come ha gestito il caso Bonucci, come gestisce le sconfitte che si trasformano in 7-8 vittorie consecutive. La differenza tra una società perfettamente strutturata e una società che ancora tale non è. Senti Giovanni, mi fai fare una domanda a Pierpaolo Merlino che muoio dalla voglia di fare. L'altro giorno ci siamo divertiti su questo giochino, su questa classifica dell'equipe, sui 50 allenatori più bravi del mondo in attività. Fossi il direttore di un club ricchissimo e che vuole vincere tutto, chi prenderesti? Facci un nome, eh? Uno. Uno. Così, puoi prendere chi vuoi, eh? Puoi prendere chi vuoi, eh? Scegli. Sì, in questo momento scelgo Conte. Conte. Ah, tra l'altro Conte che oggi ha vinto 3-0 con l'Everton, ed è a più 7, è a più 7 sul Tottenham, che sta facendo 0-0 con l'Arsenal al 25esimo del primo tempo. Conte che Antonio Conte, che tra l'altro era secondo in quella classifica. Sì, ma devi vincere anche la Champions, però. Sì, però chi non l'ha vinta ancora ed è un bravo allenatore ha probabilità che la vinca. È affamato al punto che giusto. Grazie direttore. Paolo Marino. Ciao direttore. Ciao, arrivederci. Ciao. Buon lavoro. Grazie per Paolo Marino. Riusciamo un minuto, dai. Mauro d'Alessandria. Mauro. Pronto? Vai. Buongiorno, grazie per la convocazione. Due cose velocissime, una sulla Roma e una sul Milan. Sulla Roma, ma se Strootman si alzava e andava dall'arbitro a dire che non è rigore, se non aveva le ruote, se evitava di cadere era meglio. Poi la seconda, Mauro. Ok, ma nessuno dice che il Milan, se avesse la rosa al completo, a mio parere sarebbe da quinto. Quindi tu stai parlando di Bonaventura, sì, di Montolivo, Romagnoli. Romagnoli è mancato oggi, mancato parecchie partite in alcune occasioni. Il duo Paletta Zapata ha fatto tanto paura. Poi, vabbè, Del Milan è che non segna, non dietro il Milan più o meno il suo lo fa. Il problema è che non segna. Io credo abbia il decimo attacco della Serie A. Non so tu, ma io oggi come oggi tra il Milan e da quinto posto hai detto? Sì, tra quindi Atalanta, Milan e Lazio. Ma io tra Milan, Atalanta e Lazio mi prendo la Lazio e poi per il quarto posto e l'Atalanta per il quinto. Grazie, sì. Mauro, ci dobbiamo fermare, c'è il GR, torniamo subito dopo e apriamo la pagina sull'Inter, così abbiamo le ultime. Oggi c'era Zanga alla Pinettina, parliamo della Juventus anche, oltre che della Formula 1. Sono 5 partite importanti, io ho sempre detto, sempre sostenuto, e voi credo che ne siate buoni testimoni, che i bilanci bisogna farli a fine stagione, e quindi tutti i bilanci che sono stati fatti prima, un mese fa e anche adesso sono solamente bilanci parziali. Tutti convocati. Primo maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Ma in questo giorno sono ancora troppi quelli che il lavoro non ce l'hanno o addirittura hanno smesso di cercarlo. Cosa chiedere alle istituzioni e alle parti sociali? Com'è possibile conciliare le tutele di un lavoro duraturo e la flessibilità produttiva che la globalizzazione chiede alle imprese? Radio 24 affronta questi temi coinvolgendo esperti, rappresentanti di istituzioni, imprese e sindacati. Speciale primo maggio, come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. Con Vincenzo Miglietta, alle 8:15, su Radio 24. Tutti convocati. Purtroppo in questo momento è vero che le nostre prestazioni non sono all'altezza, quindi siamo tutti responsabili del nostro calo, ma è altrettanto vero che abbiamo una grande occasione domani sera di dimostrare che squadra siamo, e soprattutto abbiamo ancora 5 partite per dimostrare di che livello siamo, di che pasta siamo fatti, ed è quello su quale stiamo lavorando ed è quello su quale io mi sto concentrando, solamente su questo. Questo Pioli ieri forse non immaginava nemmeno che la Fiorentina perdesse a Palermo, che il Milan si fermasse a Crotone, e quindi di fatto questa sera l'Inter ha la chance, l'opportunità di agganciare il Milan al sesto posto, l'Inter ha la chance di agganciare il Milan al sesto posto a quota 59 punti, di staccare definitivamente la Fiorentina e quindi di potersi giocare una volata per il preliminare di Europa League da qui alla fine. 800 24 00 24. Saluto Andrea Sorrentino di Repubblica, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Andrea. Nemmeno se lo immaginava lui ieri mentre parlava che gli altri avrebbero giocato al gambero. E perché non se lo doveva immaginare? Secondo te ci pensava? Ragazzi, qui la storia di questo sesto posto è piuttosto bizzarra, o anzi è piuttosto chiara, non lo vuole nessuno, non lo vuole nessuno, perché non soltanto per le tournée estive che magari potrebbero dar fastidio a Milan e Inter, che hanno già in programma delle cose in Oriente, ma la stessa Fiorentina, che magari non ha le tournée, ma nessuno vorrebbe disputare il famoso preliminare di Europa League di fine luglio, perché è una cosa che dà fastidio alla preparazione, che ha già fatto danni in passato. Io ricordo anche soltanto l'Inter di Stramaccioni, che poi arrivò decima, ricordo lo stesso Sassuolo quest'anno. Insomma, ti è un tipo la di stagione. Impegno. Esatto, è un tipo di impegno che in qualche modo non è nelle corde dei nostri atleti, ecco, mettiamola così. Sta di fatto che a questo sesto posto nessuno vuole arrivare, o comunque non è un piazzamento gradito in questo momento della stagione. E stiamo vedendo infatti motivazioni particolari della stessa Fiorentina a Palermo, del Milan a Crotone. Stasera vediamo un po', se parlassimo soltanto di motivazioni, ovviamente l'Inter ha la motivazione di dover arrivare al sesto posto, il Napoli al secondo, e quindi sono molto diverse. Non solo per questo vedo il Napoli favorito, ma anche perché insomma a livello di organico e di tutto il resto il Napoli si fa preferire. L'Inter viene dalla settimana che conosciamo, è un po' così, di ritiro forzato, di ritiro obbligato. È arrivato il proprietario a dare la carica a tutti, magari cercheranno stasera di fare una buona figura, ma insomma la stagione dell'Inter l'abbiamo già in parte archiviata. Ma secondo te lo hanno avvisato a Zhang che il sesto posto non interessa, quindi stasera se va in una certa maniera non se la deve prendere? No, ma io penso che lo stesso Zhang l'importante è che gliel'abbiano detto, perché io ho letto Zhang un comunicato inizio settimana dove c'è scritto nero su bianco che la squadra deve entrare in Europa. Esatto, bisogna andare in Europa a tutti i costi. Poi ci sarebbe ancora il quinto posto volendo da agganciare. Lontanino però, l'Atalanta a quota 64, però ammesso che l'Inter vinca stasera, sono 5 punti in 4 partite. Poi tu dici tra il dire e il fare, o tra lo scrivere e il fare, c'è di mezzo il mare. Io la penso esattamente come te, quel sesto posto è un gradino molto scivoloso. Senti, voglio fare anche a te una domanda che ho fatto a Giovanni venerdì e mi ha risposto in maniera molto secca, molto netta. Tu credi che ci sarà contestazione nei confronti dell'Inter stasera? Giovanni Capuano mi ha detto no. Qualcosina ci sarà sicuramente. Non so con quali modalità, se vibranti, rumorose o silenziose, ma ci sarà qualcosa, perché chiaramente... Cioè ci sarà pressione sull'Inter? Per forza, per pressione forza. Per forza. Non può non esserci, perché al di là di tutti i discorsi tecnici, tattici che possiamo fare sull'allenatore e sugli allenatori, è chiaro che nell'ultimo mese l'Inter ha avuto un crollo di rendimento in molti giocatori, un crollo di rendimento atletico, fisico, tecnico e anche mentale. Penso solo al crollo di un Gagliardini o di un Miranda. Insomma, è una squadra che ha abbassato di molto l'intensità delle sue partite, forse anche degli allenamenti, per tutta una serie di motivazioni che possiamo sviscerare in tanti modi. Poi le verità sono tante. Io penso, mia opinione personale, che da quando lo spogliatoio ha cominciato a capire, anzi ha capito con certezza, che Pioli non sarebbe stato comunque l'allenatore della prossima stagione, lo ha mollato per strada. Secondo me qualche giocatore ha capito che già si pensava all'anno prossimo, ma del resto è l'input che è arrivato dal club, perché poi non è che poi sono sempre tutti cattivi qui. Il club ha fatto capire, ha fatto sapere, o comunque si è fatto smascherare in una trattativa con Conte molto clamorosa, che ha fatto venire, insomma, che ha fatto fare i ragionamenti del caso un po' a tutti dentro lì. A proposito del futuro, Reali è l'uomo giusto per riparare almeno uno degli errori di questa stagione, cioè la mancanza del famoso uomo forte di collegamento tra la società, l'allenatore e la squadra? Senz'altro è un uomo giusto, perché ricoprirà questo ruolo di club manager, come si dice adesso, cioè di raccordo, di collante tra le varie parti del club. Però è l'uomo giusto, con a fianco anche un allenatore giusto, quindi vedremo chi prenderanno, perché il solo Reali può fare poco. Perché non va sopravvalutata la cosa? Cioè io ricordo un periodo di Reali fortemente contestato per quello che faceva all'interno dell'Inter, da parte dei tifosi e di tutti, no? Perché poi dopo si tende si a ricordare il bello, giustamente accanto a Mourinho, si ricorda Reali con Mourinho, si ricordano, ci sono i ricordi dolci per i tifosi dell'Inter, ma insomma se poi quando le cose non vanno sono naufragati tutti. Ma infatti per questo ti dicevo, bisogna vedere con chi lavorerà Oriali. Se lavorerà con Conte, con cui già c'è stato un sodalizio che abbiamo apprezzato agli scorsi europei, ad esempio, sarà un conto. Se lavorerà con Mourinho, di nuovo, sarà lo stesso, sarà comunque una buona cosa. Lo dici così per dire, no, stai facendo appunto questo che mi interessa, outing, stai facendo dei nomi a caso o no, beh, Conte non è un nome a caso, quell'altro no, ma le reali possibilità, Andrea? No, in realtà non ce ne sono su Mourinho in questo momento. Mourinho è l'allenatore del Manchester United e Conte è l'allenatore del Chelsea. Sono tutti e due al primo anno, uno al Chelsea e l'altro al Manchester United. Diciamo che Conte ha molte più possibilità di venire via dal Chelsea di quante ne abbia Mourinho, per tutta una serie di motivi, anche molte più motivazioni per venire via dal Chelsea ed andare all'Inter di quante ne abbia Mourinho. Però ecco, insomma, dipenderà dall'allenatore con cui lavorerà Oriali. Ecco, io penso ancora che sarà Conte. L'Inter sta aspettando una risposta ed è agganciato a quella. Poi ci sono le alternative valide o meno valide oltre a Conte, ma l'obiettivo è ancora lui, Antonio Conte, che non ha affatto sciolto le riserve né fuori né dentro di sé. Sì, me lo segnalano orientato a cambiare idea spesso nell'ultimo esattamente periodo. molto combattuto, molto indeciso. Però io ritengo sia difficilissimo portare via dopo un anno un tecnico da Abramovich, anche se capisco che poi sono gli allenatori che decidono e se vogliono andare vanno. D'altra parte sarebbe l'uomo franchigia, è inutile star lì, cioè sarebbe l'allenatore che davvero ti fa fare il salto di qualità, ma che ti dà anche un'immagine diversa se lo metti in vetrina, se anche quello che convince grandi giocatori a venire da te, c'è tutto l'indotto Conte, bravo è tutto l'indotto. E quindi quello è l'obiettivo numero uno. Mi prendo gli ultimi 30 secondi di Andrea Sorrentino per chiedergli se ha novità dell'ultima ora sull'Inter che vedremo stasera contro il Napoli a partire da Perisic. Sinceramente sono in attesa anch'io, io mi aspetto qualche novità, Giovanni, ma deve esserci per forza, se non ce ne fossero sarebbe un po' strano, no? Dopo quella partita di Firenze, dopo la settimana di ritiro, se rivedessimo l'Inter 4-2-3-1, le stesse ali, lo stesso centrocampo, insomma, sarebbe un po' strano. Aspettiamoci qualcosa di nuovo, senz'altro, perché non credo possa essere soltanto il Brozovic vicino a Gagliardini, qualcosa cambierà. Tanto siamo arrivati a rischi a tutto, Brozovic è quello due settimane fa della volée sul calcio di punizione della Sampdoria. Stasera vale tutto. Grazie Andrea. Ciao Andrea. A voi, ciao. Grazie Andrea Sorrentino di Repubblica. Abbiamo il traffico, poi diamo un'occhiata alla Juve. Siete tutti convocati. Arrivo, Enzo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Noi ci penseremo al Monaco da domani, oggi avevamo pensato tutto sull'Atalanta perché sapevamo che non era facile. È un punto che tante squadre non lo hanno potuto fare qua, però noi volevamo 3 punti. Mercoledì non sarà facile, però spero di poter aiutare al massimo la mia squadra. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornarci a Monte Carlo. Però anche in questo senso di essere stato, che siamo stati in un buon banco che possa servire alla Juventus, secondo me ha fatto bene Allegri a non fare turnover e a giocare con la squadra completa. Io spero fortemente che la Juventus passi il turno, vada in finale, questo è evidente. Se noi abbiamo contribuito a qualcosa, va bene. Non tardare più, manchi solo tu. Osceri ritorna a Monte Carlo. Questa partita, visto che la squadra ha grande maturità, ci servirà per capire come sarà la partita di Monaco. Il Monaco è una squadra che gioca simile all'Atalanta, con pressione, con corsa, con ripartenze, con verticalizzazioni, e quindi bisognerà essere molto bravi. Allora, al netto di guida e questioni arbitrali, saluto intanto Max Nerozzi, inviato della Stampa. Ciao Max. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Max. Io credo che il venerdì sera della Juventus a Bergamo qualche dubbio l'abbia fatto sorgere. Poi, per carità, è arrivato sabato pomeriggio di Monaco-Tolosa e secondo me i tifosi della Juve si sono anche rinfrancati vedendo la fase difensiva del Monaco. Che altra cosa rispetto a quella esatto. dell'Atalanta. Però, usando l'Atalanta come test della trasferta nel Principato, è qualcosa che non è andato benissimo, si è visto, no Max? Sì, guarda, soprattutto nel primo tempo, tant'è che Allegri si è arrabbiato tantissimo negli spogliatoi all'intervallo e invece non c'è andato neanche alla fine, perché secondo lui il secondo tempo è stato buono nonostante il flipper finale, però si è arrabbiato per i palloni persi in uscita, un po' da tutti, che è una delle cose vietate contro il Monaco, come dicevate prima voi, perché in ripartenza sono molto bravi. Monaco ma gioca alla roulette dietro, nel senso che può combinare qualsiasi cosa. Davanti gioca la roulette scommettendo sul nero e sul rosso, perché una volta su due fa gol. Vi do solo una cifra che pubblichiamo domani sul giornale: il signor Mappé segna a una percentuale realizzativa del 46,48%, cioè 46%. Sì, 46 tiri nello specchio, 24 gol. Hai capito? Un killer, praticamente un killer. No, solitamente quelli bravi stanno intorno al 25%. Sì, no, lui è proprio un cecchino. Tra l'altro, tra un Monaco e l'altro, potrebbe esserci anche di mezzo una festicciola scudetto, due bottiglie da stappare. Sì, guarda, non mi sorprenderei tra l'altro che nel derby, che può essere la partita decisiva, invece Allegri farà un po' di turnover che non abbiamo visto a Bergamo, perché lì sarà un po' più ravvicinata il secondo round di Champions. Io credo l'avesse programmata così, forse anche da quello c'è la stizza per aver perso nel finale la vittoria con l'Atalanta. Sì, può essere, poi l'ha programmata così perché lui pensa che sia decisivo il match di andata a Monaco, perché chiudendo bene quello, sai, loro dopo si devono scoprire. Invece se prendi gol da una squadra del genere, Jardim insomma fa un calcio molto verticale, ma anche molto chiuso, non ha la difesa come ricordavate voi prima della Juve, anzi non ha una difesa perché ha preso 17 gol in Champions League, quindi sì. Si va un po' alla preghiera. Sì, è un po', cioè, anche se non dobbiamo dimenticare che fuori casa il Monaco ha fatto, vado a memoria, 3 gol a Manchester, 3 gol a Dortmund, 2 sì. gol sì, contro il Tottenham, siamo, fuori ragazzi, casa. Qui stiamo parlando di una squadra che ha fatto 0-0 con la Barcellona, che non ha fatto segnare il Barcellona, che insomma stiamo parlando della squadra più solida d'Europa, se me lo concedi. Quindi va bene il grande rispetto, la massima attenzione, una semifinale di Champions League, ci mancherebbe altro, però mi sembra che la Juve abbia una tenuta mentale, nervosa, fisica, emotiva, di carisma, eccetera eccetera, per cui insomma si può andare a fare il viaggio al mare della Costa Azzurra con fiducia, ecco, al di là dei due gol presi ieri con l'Atalanta. Guarda, c'è un amico che scrive: Allegri ha già perso in carriera lo scudetto pur avendo la squadra più forte delle altre. Mi sembra una cattiveria inutile oggi. Sì. Anche un po' superata, anche un po' datata, direi. No, fiducia hai ragione, anzi paragonare i due Monaco che non si assomigliano, quello dei quarti di finale di due anni fa, perché gli unici su patch sono Subasic in porta, Moutinho e Bernardo Silva, è un'altra squadra, aveva meno talento perché non c'era Falcao, non c'era Mbappé, c'era Martial davanti, c'era Kondogbia in mezzo, però era molto più solida. Se ricordate 1-0 allo Stadium faticosissimo con un rigore, e 0-0 anche lì faticosissimo con un rigore, esatto, che c'era per il Monaco. No, questo per ricordarle, visto che oggi è stata anche la domenica del tema arbitrale. A proposito, credo che l'ambiente Juve abbia ampiamente metabolizzato quanto accaduto venerdì sera a Bergamo dal punto di vista arbitrale. No, quello sicuramente. Guarda, già Allegri dopo la partita aveva evitato di parlare dell'episodio, ma come era successo poi magari anche dopo le polemiche di San Siro con Milan Juventus. Sì, che non significa essere passivi, perché poi tanti dicono facile farlo quando sei primo in classifica, facile farlo quando sei alla Juve, che è il club più forte anche dal punto di vista politico, non significa essere passivi. Però credo sia un esempio di come non ci si debba perdere dietro l'ordinaria amministrazione arbitrale, che è fatta di episodi a favore ed episodi contro. Sottoscrivo, diciamo che quando le cose vanno bene è un po' più facile. Detto questo, quest'anno secondo me abbiamo visto cose allucinanti, ma non parlo solo della Juve, mi viene in mente Sassuolo-Milan, dopodiché andiamo sempre avanti a dire che i nostri abiti sono i migliori del mondo. Beh, guarda, senza andare lontano il derby di oggi, senza andare lontano. Max, senza andare lontano, il derby di oggi è stato un rigore, tra l'altro dall'arbitro migliore della stagione, mi confermi, tu che ne sai più di me, Giovanni Capuano. Sì, confermiamo tutti, Orsato è il migliore oggi in Italia, però l'amico Luca Marelli, ex arbitro, che scrive anche di queste cose, mi fa notare che quando in un campionato al migliore Orsato tu fai arbitrare Napoli-Roma, Juve-Roma, Napoli-Juve, Inter-Milan, Roma-Lazio, Genoa-Sandoria, prima o poi sbaglia, e due significa che tu non hai tante alternative, e questo è, se vogliamo, ancora più preoccupante della giornata storta che oggi ha preso Orsato e che può capitare anche ai migliori. No, sì, certo, prima o poi può sbagliare, però è vero, forse rispetto alla generazione precedente ci sono meno densità di arbitri di quel livello lì, e quindi dopo vai in difficoltà perché sei obbligato alle designazioni sui match che contano, o se no cerchi di lanciare un giovane, però sai come siamo fatti noi in Italia, se poi sbagli una partita importante è dura poi rimandarlo. Sì, lanci il giovane e poi se sbaglia dici perché non mi hai mandato Orsato o Rizzoli. Grazie Max. Ciao Max. A voi, ciao, buona serata. Grazie. Noi siamo meravigliosi così. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandro. Ciao. Buonasera. Io ho detto prima, se i tifosi della Juve venerdì sera si erano un po' preoccupati vedendo qualche errore di troppo in difesa contro l'Atalanta, sabato si sono rinfrancati vedendo il Monaco dietro. Allora, facci la fotografia del Monaco a 72 ore dalla partita con la Juve. Ma il Monaco è una squadra che sta viaggiando con la fiducia piena, con il vento in poppa in campionato, naturalmente si avvicina settimana dopo settimana allo scudetto, che significa sottrarlo soprattutto al Paris Saint-Germain, quindi questo, diciamo, è già un bollino di garanzia per il Monaco. È una squadra che fin dall'inizio di stagione ha mostrato un gioco molto offensivo con giocatori che si sono rivelati dei fuori classe, perché abbiamo il ritorno in forma di Falcao e soprattutto questo 18enne Mbappé, che anche ieri ha segnato un gol magnifico con una partita dove è stato decisivo, ha permesso appunto al Monaco di iniziare la rimonta, di ribaltare un risultato negativo con il Tolosa, e sarà lui sicuramente uno dei pericoli maggiori. Non è infallibile, anzi nella finale di Coppa di Lega contro proprio il Paris Saint-Germain è stato annullato da Thiago Silva, quindi significa che alla sua età si può ancora imbrigliare, e non penso che Bonucci e Chiellini avranno problemi. Chiaro, in difesa c'è il punto debole, anche se da un punto di vista statistico non sono messi così male, perché hanno subito, mi pare, 5 gol o 6 gol più del Paris Saint-Germain. Però sì, è in Europa che ne hanno subiti davvero tanti per essere una squadra arrivata alle semifinali, credo siamo a 16 o 17 contro una squadra che ne ha subiti 2 esattamente, hanno giocatori chiaramente, hanno stabilizzato un po' con l'arrivo di Glick, che si è portato un bagaglio tecnico tattico dall'Italia molto importante, però chiaramente questo Jamerson da sempre mostra grossi limiti fino all'anno scorso, e poi ha un gioco molto offensivo con i terzini sia a destra che a sinistra, particolarmente Mendy, che sicuramente porta molta, che ieri insieme abbia fatto una decina di cross, 7 solo nel primo tempo. Però ha forti limiti in copertura, quindi tutti questi elementi vanno a vantaggio della Juventus. Sì. Hai l'impressione che Bakayoko e Sidibé potranno recuperare per la partita con la Juve? Bakayoko si è allenato con una maschera stamattina, quindi protettiva dal colpo che aveva subito in allenamento con Glick. Sidibé c'è più incertezza, io penso che si andrà verso un'alternativa, perché deve comunque recuperare dall'operazione appendicite, comunque avrebbe dovuto già iniziare una fase di ritorno in campo, che non ha fatto, non è stato indicato un recupero, un piano di recupero, quindi è probabile che non ci siano. Poi con Jardim tutto è possibile, perché Jardim è un maestro della pretattica. D'altra parte è stato curioso l'approccio delle due squadre a questa gara, con il Monaco che ha fatto giocare la primavera praticamente buttando via la Coppa di Francia. Ma è vero che la rosa è ridotta, la Juventus ha fatto giocare tutti i titolari ieri. Ma io sono molto curioso di vedere questa partita, perché È chiaro che se la Juventus è riuscita a tenere lì in quel modo la potenza d'urto del Barcellona, l'attacco più forte del mondo, immagino giocherà su quella falsa riga, però quando ripartirà potrà fare un male cane al Monaco. Io immagino una partita così, no? Penso che il Monaco possa fare male a chiunque, però hanno forti limiti appunto a livello di difesa e di bilanciamento verso l'attacco. E poi soprattutto è una squadra che, come va ricordato, che nessun giocatore è mai arrivato in una semifinale di Champions League, neanche Falcao, quindi è una squadra che da un lato gioca leggera perché arriva a questo punto della stagione con in semifinale di Champions, che non è certamente tra gli obiettivi della stagione, e qui non ha più nulla da perdere, quindi questo può essere molto pericoloso. Grazie Alessandro. Ciao Ale. A voi. Ciao, grazie. Ciao. Alessandro Grandesso, inviato corrispondente della Gazzetta dello Sport dalla Francia. C'è chi chiede se è meglio Mbappé o Schick. Chiede Schick. Paola. Due bei giocatori. Tifoso della Sampdoria, due bei giocatori. Pigli. Io mi prendo in assoluto, credo, Mbappé, perché quello che lo sta facendo a un livello in cui Schick non si è ancora misurato, però io devo dire la verità, sono innamorato di quello che fa Schick. Sì, sì, sì. E no, anche Schick, ieri ha fatto un gol straordinario. Sì, la differenza è che uno Mbappé è la stella emergente, nascente e intoccabile del Monaco. Schick è praticamente la riserva di Muriel, no? Io sarei curioso di vedere Schick ad alto livello giocare con continuità. Credo anche che le quotazioni siano vagamente diverse, no? Perché per Mbappé già si parla di una quantità di milioni che l'Italia non potrà mai permettersi. Sì, Schick, anche se 25 per Schick, penso che oramai non bastino più, anche se c'è la clausola. Ce ne sono tanti che lo stanno inseguendo e comunque sia la Sampdoria avrà fatto un affare. Rapidissimo aggiornamento, abbiamo detto che il Chelsea ha vinto fuori casa contro l'Everton 3-0, salendo a quota 81 punti in classifica. Il Tottenham alla fine del primo tempo è fermo sullo 0-0 con l'Arsenal, quindi in questo momento di punti ne ha 75 ed è lontano 6 lunghezze dal Chelsea di Conte. Ci fermiamo, io ringrazio e saluto Carlo Genta, che trovate domani alle 14. Ci vediamo domani in diretta. Quando torniamo parliamo proprio della Premier League e poi ovviamente c'è la grande pagina dei motori con il podio per due terzi Ferrari, ma anche con un pizzico di amaro in bocca, perché a vincere è stata una Mercedes. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. C'è Alessandro dalla provincia di Milano. Prima però vi do un ulteriore aggiornamento che arriva direttamente da Luca Marelli, ex arbitro, ne abbiamo parlato prima. Il campionato di Orsato è finito qui, perché domenica parte per la Corea del Sud, va a fare i mondiali under 20, farà anche il ruolo di VAR, che poi dall'anno prossimo entrerà dalla prima giornata nel nostro campionato, e quindi quello di oggi, il derby di Roma tra Roma e Lazio, è stato il suo ultimo gettone in questo campionato. Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro, buon pomeriggio a tutti quanti. Volevo intervenire per quanto riguarda, sono un tifoso juventino e sono molto contento della stagione fin qui, della mia squadra del cuore. Volevo fare un raffronto con 2 anni fa, quando siamo arrivati in finale a Berlino, e io penso che, a parte il centrocampo leggermente più debole, la squadra sia nettamente più forte di quella di 2 anni fa, che ha messo paura solo per 10 minuti al Barcellona. Io non lo so se sia nettamente più forte, Alessandro. A parte il centrocampo. Centrocampo era più forte, credo, quello di Berlino, sì, anche se in realtà, esatto, Pirlo, sì, era ormai nella fase ampiamente discendente. Sì, anche perché Pirlo quella partita di quella passeggiò stagione. E Vidal rischiò più di una volta di venire cacciato in quella partita. Però la difesa mi sembra che abbia fatto un salto di qualità a livello proprio mentale. Non avevamo 2 esterni come Dani Alves e Alexandro, e in attacco io mi aspetto sempre che Higuain cominci a fare qualche gol anche in Champions. Sì, anche se poi in realtà io credo che la mossa di Allegri di passare al 4-2-3-1, di fatto togliendo un uomo, la necessità di schierare un uomo a centrocampo, abbia in parte risolto i problemi. e quindi ad esempio oggi Marchisio è la prima riserva di questo centrocampo e come prima riserva è una prima riserva importante. Insomma, resta poi, io credo, più che altro l'impatto sull'Europa. Questa è una squadra forse più consapevole. Quella è una squadra che è arrivata alla finale senza averlo programmato. Oggi la Juve ha programmato di provare ad arrivare fino in fondo e quindi credo che fisiologicamente possa giocarsi queste semifinali e l'eventuale finale, secondo me, col ruolo di favorita o comunque col ruolo di chi pensa di poter vincere e alzare la coppa. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Andiamo in Inghilterra. Allora, sono con Paolo Ciaravano, collega di Sky, parliamo un po' di Premier League, l'aggiornamento ve l'abbiamo dato prima, quindi la vittoria del Chelsea 3-0 contro l'Everton, il Tottenham attualmente fermo sullo 0-0, la fine del primo tempo in casa contro l'Arsenal, secondo tempo che sta cominciando, è cominciato da pochi secondi. Paolo Ciaravano, può essere la domenica dello strappo definitivo? Potrebbe esserlo, aspettiamo questo secondo tempo del North London Derby. È chiaro che se il Chelsea dovesse riallungare avendo 3 partite su 4 in casa, tutte ampiamente abbordabili, a cominciare da quella contro il Middlesbrough lunedì prossimo, avrebbe ovviamente il titolo in mano. Oggi il Chelsea affrontava la squadra più difficile sul suo cammino da qui alla fine, e la prova è stata brillantemente superata. L'Everton veniva da 8 vittorie consecutive in casa, primo tempo con qualche sofferenza ma anche con un paio di occasioni fallite, e poi un secondo tempo dove il Chelsea ha dilagato. Potrebbe essere sinceramente questa la domenica decisiva, la giornata decisiva. Sì, squadra di una solidità pazzesca quella di Conte. Ma la prima dote forse è proprio questa, la solidità, anche se poi è una squadra che quando decide di fare sul serio fa anche un buon calcio, però è una squadra che si è saputa gestire oggi nel corso della partita, mi viene da dire, con un primo tempo magari di attesa, un secondo tempo dove, sfruttando il calo atletico dell'Everton che ha prestato molto, il Chelsea ha divorato gli avversari, ma una gestione che c'è stata secondo me anche nell'arco della stagione. Il Chelsea non aveva una rosa sterminata come quella che aveva per esempio il City o lo United, aveva fondamentalmente 13, diciamo 14 titolari, non era una rosa forse attrezzata per una grande stagione su 3 fronti, e il fatto di aver avuto una stagione senza coppe, Conte l'ha saputo capitalizzare trovando una formula perfetta per l'organico che aveva a disposizione, dimostrando di essere un grande allenatore soprattutto in questo. Sì, ma forse anche è anche qui che risiede il dubbio se restare o no, se ascoltare le sirene cinesi dell'Inter o restare, perché insomma questo non è un Chelsea costruito e pensato per essere ipercompetitivo l'anno prossimo in Premier e anche in Champions League. E Conte su queste cose è particolarmente sensibile, lo ha dimostrato anche la Juventus quando pensa che il ciclo non sia maturo. No, è vero, è sensibile sicuramente, ma devo dire, come è giusto che sia, ogni grande allenatore che pianifica già la stagione successiva. Io credo che Conte, allora, innanzitutto vada in questo momento la sua situazione iscritta in una situazione europea, mondiale, soprattutto europea. In questa settimana l'Equipe ha fatto una classifica dei migliori allenatori al mondo, chiedendo ai suoi giornalisti di votare. Conte è soltanto il secondo, è al secondo posto al mondo in questo momento, e davanti ha solo Guardiola, che è uno che ha vinto tantissimo, come sappiamo, cioè bisogna di ricordarlo, anche a livello internazionale. E soprattutto ha lasciato un segno, ha segnato un'era Guardiola, al di là esatto, credo, del conteggio dei trofei. L'Equipe, che io ritengo il giornale sportivo più autorevole al mondo, mette Conte in questo momento al secondo posto. Io non credo che sia solo l'Inter, sinceramente, che a questo punto della stagione possa avere intenzione di provare di chiamare a prenderselo. Conte. Io credo che si stia innescando adesso un giro di panchine più o meno precarie, dove chi vuole migliorare, nei grandissimi club ovviamente, possa pensare a Conte. Quindi io credo che Conte avrà, ha già l'Inter, ma avrà secondo me anche altri nomi che potranno andarlo a disturbare. Io penso a qualcuno a cui vada male qualcosa in questo finale di stagione. Dai, facciamo il nome, Zidane e Real Madrid, ad esempio, non dovesse arrivare alla Real finale. Real Madrid secondo me potrebbe essere un nome ragionevole di un club che dovessero andare male le cose. Premetto che Zidane non è un allenatore scarso che molti sostengono, Però, no, però a Madrid sono abituati così, se una cosa va male si cambia. Ancelotti era licenziato fino al 92esimo della finale di Champions con l'Atletico, la prima. Esatto, fino al gol di Sergio Ramos era Ben Walsh. Quindi, se tra tre giorni, una settimana, due settimane il Real Madrid dovesse chiamare Conte, io non mi stupirei, sinceramente. Conte valuterà questa situazione, ha il vantaggio di poter essere ambito da tante pretendenti stimolanti, affascinanti, seducenti, allora andrà a parlare e sta già parlando con il Chelsea, perché sta già chiedendo giocatori per l'anno prossimo. Se non dovesse avere le certezze, le rassicurazioni che lo convincono, potrebbe anche pensare di cambiare idea. Al momento, secondo me, resta sulla panchina virtualmente, no? Sulla panchina del Chelsea per l'anno prossimo, ma da qui alla fine, secondo me, può succedere di tutto. Assolutamente, grazie Paolo. A voi. Grazie Paolo Ciarravano, collega di Sky, che ci ha raccontato un po' cosa si vive intorno al Chelsea. Invece io adesso vi racconto una storia brutta che viene dalla Serie A. Dal Sant'Elia di Cagliari, durante la partita tra Cagliari e Pescara al 44esimo del secondo tempo, Muntari si è lamentato a più riprese con l'arbitro Minelli e con gli assistenti per dei presunti cori razzisti provenienti dalla curva dei tifosi di casa. Così dicono le cronache. Il fischietto ha ascoltato passivamente le proteste e lo ha ammonito. A quel punto l'ex di Milan e Inter ha abbandonato volontariamente il campo, sbraitando contro arbitro e quarto uomo. Vi faccio sentire Muntari dopo la partita. A un certo punto arbitro mi sono avvicinato, ha detto: ma tu non devi parlare con il pubblico. E lì che lui mi ha fatto incazzare. Ho detto: ma tu chi sei? Ho usato parole anche su di lui, ho detto: ma chi sei? Perché mi dici così? Loro, tu non hai sentito quello che stanno dicendo? E lui ha detto: sì, ma tu non devi parlare, parlo io. Ho detto: no, tu non parli tu. Tu devi avere le palle per fermare la partita. Se tu non hai le palle, quindi chi sei? E lui è stato fortunato perché è arbitro. Arbitro non si tocca arbitro. Se toccavo arbitro, se riesci, c'è regole per toccare arbitro. Lui era sotto terra già. Vabbè, questo è Muntari. Tralasciamo l'ultima parte, quella sul fatto che gli arbitri non si toccano, ci mancherebbe altro. Però altri arbitri in passato hanno preso decisioni differenti. Ha detto Zeman, Muntari se n'è andato perché sentiva i cori razzisti, ma non dobbiamo farci giustizia da soli. Io non so che riflessioni fate voi. Fedele dalla provincia di Massa Carrara. Fedele. Buonasera. Eccoci. Ecco, io volevo un parere su una mia idea. Sì. Nella Formula 1... cedessero lo stesso punteggio anche nelle qualifiche e poi li facessero partire all'inverso, non sarebbe più spettacolare? Sì, però sarebbe anche, Fedele, perdonami, la negazione della meritocrazia. Cioè, se uno è più veloce parte davanti, perché deve partire per ultimo? Va bene, ma gli danno i punti, cioè io direi dare gli stessi punti come nella gara, no? Quindi 25 punti a quello che fa la pole position, poi però parte per 22esimo e poi via via a scalare. E perciò ci vedrebbero sorpassi e compagnia bella, a parte che io sono non vedente, perciò la cosa non è che mi interessi molto. Però mi sembra molto noiosa la Formula 1 al giorno d'oggi. Ma oggi è stato un Gran Premio molto noioso, si è deciso tutto nei primi 300 metri, adesso ne parliamo, dopo il traffico con il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Umberto Zappelloni, si è deciso lì perché Bottas si è messo dietro le due Ferrari, Hamilton oggi era in vacanza e poi non c'è più stato nulla da fare, le Ferrari sono rimaste dietro a Bottas e non sono riuscite mai a colmare il gap. E questo è un dato di fatto. Però, Fedele, in questo inizio di mondiale, in realtà, seppure con le nuove regole, seppure con macchine velocissime, per cui è difficile, ancora più difficile sorpassare, ci siamo divertiti, qualcosa si è visto. Però sarebbe più spettacolare, secondo me. Sì, ammesso che sia spettacolare vedere una fila di sorpassi scontati, perché poi credo che una Mercedes e una Ferrari che partano ventesimi nell'arco di 3-4 giri siano già a ridosso delle prime posizioni. Va bene. Grazie Fedele. Antonio da Verbania. Antonio. Sì, buonasera. Vai. Sento un gran parlare di allenatori che vogliono lasciare, che forse li conferma, è la stessa cosa della Juventus, solo che al contrario di tutte le altre squadre la Juventus gioca e martella e ci crede e vince, almeno non perde. Le altre squadre l'alibi è l'allenatore, ma ci vuole la mentalità delle società, quello che manca in parecchie società in Italia in questo momento. Sì, è anche una cosa che si costruisce quando le cose vanno bene, però, Antonio. Cioè, la Juventus ha un merito straordinario in questa fase storica, che evidentemente non è casuale. Però adesso è anche più semplice gestire questo momento. Ci sono stati altri cicli di altre squadre vincenti che funzionavano come un orologio e poi hanno smesso di funzionare. Mi viene in mente il Milan, che per anni è stato un esempio assoluto di gestione societaria. Gagliani era sempre stato considerato, è stato considerato per anni il miglior dirigente italiano. Poi, quando ha avuto in tasca meno soldi da spendere, quando piano piano il vento è cambiato, improvvisamente anche il Milan ha avuto dei problemi di gestione. E quindi è sicuro che il primo salto sia quello che deve fare chi vuole raggiungere la Juventus, però è altrettanto sicuro che oggi non sempre si può prendere la Juventus come paradigma per gli altri. Grazie Antonio, ci fermiamo e poi apriamo la pagina dei motori. Tutti convocati. Convocati. L'ultima curva con Sebastian Vettel arpionato alla sua posteriore, con Valtteri Bottas che vince il Gran Premio di Russia, vince per la prima volta in carriera, lo fa davanti a Sebastian Vettel che ci ha provato fino alla fine. Allora, intanto il Tottenham in due minuti è passato sull'1-0 con l'Arsenal e adesso ha il calcio di rigore per il 2-0 e quindi potrebbe nuovamente accorciare, tornare a quattro lunghezze di distanza dal Chelsea di Antonio Conte. Parliamo però di Formula 1, Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, buonasera a tutti. Io non so se si può essere amareggiati per un doppio podio della Ferrari, cioè roba che fino a due mesi fa era fantascienza solo immaginare, però credo che oggi il sentimento prevalente sia quello dell'occasione buttata via. Sì, certo, l'anno scorso saremmo andati a piedi a Superga per celebrare una cosa del genere dopo aver fatto un voto. Quest'anno ti rimane l'amaro in bocca, perché quando parti con una prima fila tutta rossa punti ovviamente alla vittoria, quindi ti rimane l'amaro in bocca, perché poi, anche perché in pista poi la macchina non è stata inferiore alla Mercedes, lo è stata nel primo chilometro. Il primo chilometro è stato decisivo perché Bottas è andato in testa, ha approfittato dell'extra power Mercedes al via e poi, anche se nei giri finali nel Vettel lo ha ravvicinato, non c'è mai stata poi più la possibilità di un vero aggancio, di un vero sorpasso. Quindi Ferrari battuta nel primo chilometro, però se vogliamo vedere la parte mezza piena del bicchiere, è aumentato il vantaggio su Hamilton e questa in prospettiva campionato può essere importante. Adesso sono 13 punti di vantaggio di Vettel su Hamilton, ma soprattutto la Mercedes si trova con due piloti che hanno una vittoria a testa, due piloti che sono divisi da solo 10 punti, e sarà più difficile fare dei giochi di squadra. Sì, ci sono tanti temi che escono da questo Gran Premio, da questo weekend di Sochi. Intanto un raddoppio del Tottenham, ha segnato Harry Kane su calcio di rigore, e dunque in un minuto Ali e Kane, 2-0 per il Tottenham sull'Arsenal. Dicevo, ci sono tanti temi che ci portiamo in eredità da questo weekend e poi ci saranno 15 giorni per analizzarli. Credo però che l'inferiorità in quel primo chilometro sia anche una mezza doccia gelata, per carità, non che si immaginasse che la Ferrari era improvvisamente diventata superiore in tutti i segmenti sulla Mercedes, però perdere una gara così ti dà la sensazione che quando ad esempio Hamilton si sarà degnato di ricominciare questa stagione diventerà complicato tenerlo dietro. Sicuramente un mondiale che si gioca molto sui dettagli, perché abbiamo visto di quanto possono essere decisivi i minimi particolari. Oggi ad esempio la partenza l'abbiamo vista, poi il pit stop della Ferrari non è stato perfetto, Vettel ha perso qualcosa ed è perso quel secondo che può comunque fare la differenza tra avere il DSR per qualche giro in più o per qualche giro in meno mentre sei dietro a Bottas, quindi cercare magari di avvicinarlo. Avevamo visto che l'ultimo Gran Premio che la temperatura troppo bassa delle gomme di Bottas al via gli aveva complicato la partenza, cioè sono tanti piccoli dettagli che possono essere decisivi. Sono due macchine che si equivalgono quasi in qualche occasione è superiore alla Ferrari, in qualche altra è superiore alla Mercedes. Qui si è un po' ribaltata la situazione, perché abbiamo visto una Ferrari che solitamente era più efficace a serbatoio pieno, qui più efficace con il serbatoio vuoto, come è stata in qualifica ieri e come è stata oggi nei giri finali. Quindi sarà decisivi gli sviluppi che vedremo sulle macchine da Barcellona in poi. Dare per sconfitta la Mercedes dopo la pole di ieri sarebbe stato assurdo. C'è una rivoluzione in atto, perché io credo che la Ferrari stia per tentare la grande rivoluzione in Formula 1 di tornare davanti. Questa rivoluzione non credo che sia stata stoppata del tutto, ma soltanto rinviata, almeno questo è l'augurio, perché comunque la cosa positiva è che la Ferrari su ogni tipo di pista, e ne abbiamo viste di molto diverse nelle prime quattro gare del mondiale, ha trovato subito una macchina molto competitiva, non è mai stata battuta decisamente in pista, perché in Cina la safety car aveva giocato contro la Ferrari, qui è stata battuta la partenza, ma poi in gara è stata all'altezza con la Mercedes, come abbiamo sognato dall'inizio dell'anno. Anche se devo dirti, direttore, proprio ricordando che cosa era successo in Cina, questo è stato il primo Gran Premio in cui la Ferrari non ha dato l'impressione dalla prima curva in poi di poter vincere. Cioè, in Cina ti restava l'idea che se non fosse capitata la safety car, se Raikkonen non avesse tenuto dietro per una decina di giri Vettel, magari l'esito poteva essere diverso. Sì, hai ragione. Qui l'impressione, questa è la prima volta che ha perso da quando si sono spenti i semafori rossi, dopo pochi secondi è svanita prima di arrivare alla prima curva. Però va anche detto che qui è stato l'asso pigliatutto, è stato Bottas, che su questa pista è sempre andato molto ma molto bene fin dai tempi della Williams. Era stato l'unico a interrompere l'egemonia Mercedes nella prima fila in Russia negli anni scorsi, nelle prime, è una pista in cui lui ha qualcosa in più, quindi aveva sicuramente, lo abbiamo visto anche nel confronto con il suo compagno di squadra, aveva qualche decimo, se non anche qualche secondo in tasca rispetto a Hamilton. La Mercedes forse è stata extra performante grazie a lui su questo circuito. Io credo che la Ferrari sì debba essere amareggiata, ma che possa uscire da questo Gran Premio comunque con la convinzione di essere sulla strada giusta. Certo, bisognerà fare, come ha detto, arriva bene i compiti a casa, ma credo che questo lo sapessimo, che da qui a fine del campionato bisognerà migliorare sempre, perché dall'altra parte hai degli avversari che non hanno dominato per nulla gli ultimi tre anni. Sì. Ma perché avevano una superiorità assoluta. A Raikkonen evidentemente serviva la strigliatina, e in questo weekend è andato veramente molto bene, insomma, bisogna riconoscerlo, ha fatto anche il giro più veloce, è stato molto efficace in qualifica, è stato molto bravo lui in partenza invece, perché Hamilton ha tentato di passarlo, lui è riuscito a respingere tirando la staccata e arrivando quasi a superare Vettel, quindi lui è stato molto bravo, perché se fosse passato Hamilton poi anche sarebbe stato difficile poi ripassarlo. È stato un perfetto secondo pilota per posto. Vettel oggi gli ha coperto le spalle in un modo perfetto, però l'altro si è lasciato sorprendere. Invece nella rubrica chi l'ha visto, se hai delle notizie, ci mettiamo Hamilton. Dall'inizio del weekend, da venerdì, cosa succede? Non è mai riuscito a mettere insieme un giro, come si dice, perché magari faceva uno delle tre frazioni in cui è diviso il giro dai cronometristi, lo faceva di colore viola e poi spariva negli altri due, sembrava non trovare la macchina che rispettasse le sue qualità di guida, mentre vedeva il suo compagno che già per la seconda volta gli sta davanti in qualifica di fila, che non è poco, un Hamilton strano, e per la Mercedes forse un po' preoccupante, perché sicuramente Hamilton è l'asso della Mercedes e qui ha fallito completamente l'appuntamento russo. Cosa soffre di più? La Mercedes che non è più dominante come negli anni scorsi, Bottas che non è venuto a fare il comprimario come magari si immaginava salutando Rosberg, oppure per la prima volta un vero duello con un avversario che non sia in casa tua? Lui forse si era illuso di avere una situazione all'interno più semplice di quella che ha avuto negli anni con Rosberg. All'inizio del campionato, la prima gara dell'anno, pensava: beh, questo quest'anno me lo faccio su tranquillamente ad ogni Gran Premio. Poi invece Bottas ha fatto vedere, migliorando Gran Premio dopo Gran Premio, che non è lì a fare la comparsa e che ha su piste che gli piacciono può essere più veloce del suo compagno di squadra. Dall'altra parte non ha più tra le mani la miglior macchina del lotto, deve fare dei weekend sempre al 100% per restare davanti. L'anno scorso gli bastava magari stare all'80%, a 70 e si teneva al secondo posto, male che andasse. Quest'anno sa di dover fare, e se ne sta rendendo conto, di dover fare dei weekend sempre a palla. Sì, e lui sui 19 Gran Premi qualche buco anche negli anni anche in cui è diventato campione del mondo li ha sempre avuto. Allora, c'è un amico che scrive: la Ferrari era più veloce, ma l'inglese forse è rimasto sulla riva del fiume per non rischiare incidenti. E un altro che dice: è tutta colpa di Lindsay Vonn se Hamilton non vince, comprensibilmente. Francesco da Mantova. Abbiamo dato così tanti flirt a Hamilton negli ultimi anni. Chissà se è quello buono. Chissà se è quello vero. Insomma, mi sembra che da un po' che non si frequenti noi due, insomma, ha avuto altre storie. Ti chiedo in 30 secondi di parlarmi di Alonso, e 30 secondi sono anche più di quello che ha corso oggi. Sì, devo dire che oggi alla McLaren è anche andata bene, perché se Alonso fosse rimasto in pista chissà cosa avremmo sentito via radio, visto poi come è andato il suo compagno di squadra, al distacco che accumulava giro dopo giro, gliene avrebbe dette di tutti i colori via radio, quindi almeno così ha stoppato con una figuraccia, con l'ennesima figuraccia terribile, la lingua di Alonso, che in questo momento sulla onda ne avrebbe da dire di tutti i colori. Sì, ma ha detto qualcosina. Sì, qualcosina, ma ha detto: io non posso fare altro che venire qui, provare ad andare veloce, risalire su un aereo e tornare a casa, che è più o meno la sintesi del suo weekend. Adesso speriamo che possa divertirsi con la 24 ore, con la 500 miglia. Speriamo che possa divertirsi, perché lo merita. Non vederlo protagonista comunque spiace. Grazie, direttore. Grazie a te, buon pomeriggio a tutti. Grazie Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Noi ci fermiamo. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi e Paolo Corleone, che si sono alternati in regia, Andro Mercù con le sue voci. Noi ci risentiamo domenica alle 17, quando magari la Juve è a un passo da festeggiare lo scudetto. Stasera alle 20.45 c'è Inter-Napoli. Domani alle 14 torna Carlo Genta con Pierluigi Pardo. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.